esplosiva dal profondo del girone. Vado via, intanto non sentite le parole, ma non lascio che sia, io risalgo verso il suolo, sapendo che il prezzo da pagare sta da solo. Verso l'alto solo fuoco, se urlo e guardo indietro sento l'eco, perché dentro sono vuoto. Gioco, arrampico pareti dell'inferno, tengo il diario su un quaderno che poi sputo su sto suono. E no che non perdono, qui non serve compassione, no. Continuo silenzioso la mia strada e vado in marcia verso il sole. Paradigma la questione, un altro sisma e bruceranno tutti quanti. Al cristiano Hare Krishna mi fissa, il fondo dell'abisso mi attraversa, mi guarda dentro l'anima e rilegge ciò che ho scritto. Lo fisso, se lui vuole che sia suo ma io resisto. E no, io non farò la fine di ogni uomo che ho già visto. Ogni braccio inizia sempre tu. Spento, ipnotizzati a schiera, chi creda l'illusione, chi non l'ha compresa, mi metto in difesa, mi grido di scappare, ma ormai la voce rauca suona di urlare. Io da solo ad incitare zombie in fiamme, con i pulmi spenti e senza palpebre, anche se qui chi affronta il peccato del più grande è lo stesso che ne sconta le condanne. Tu non credere che resti qui, son solo di passaggio, qui non ci sono superstiti, tu lanciati puoi perdere. E non chiedermi se mi fermo a cena, la vostra merda nera non la mangio, però ci resto a dieta. Asceta, mi autoesilio dal sistema adesso, perché ad ogni risveglio vedo in fiamme il mio pianeta. Lo ammetto, vorrei 1 milione d'euro e un'astronave per lasciarvi qui a bruciare mentre compio la mia ascesa.